La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qua in diretta dagli studi di Milano radio, della radio Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio, 16:31 primi 23 secondi, e grazie anche per ascoltarci in podcast. Come sempre ricordatevi, per segnalare temi, ospiti, critiche, richieste, per candidarvi a intervenire su qualche argomento, scriveteci la versione di Oscar @radio24.it. E naturalmente sarete, come sapete, soddisfatti, perché molte trasmissioni nascono appunto dalle vostre segnalazioni. La puntata di oggi, per consentirvi di decidere se volete intervenire all'800240024, le opinioni al 349-238-6666 con gli sms, è una specie di complementare rispetto a quella di ieri. Ieri siamo partiti, parlando della sinistra europea italiana, dalla ascesa di Jeremy Corbyn alla leadership del Labour britannico, e ci siamo posti il problema con i nostri ospiti e con le vostre telefonate di che cosa questo voglia dire anche per il confronto aperto a sinistra tra PD, minoranza del PD, che oggi ha avuto uno sviluppo perché stamattina è saltata ufficialmente la trattativa con la minoranza del PD sul nuovo Senato, sull'elezione diretta o indiretta del nuovo Senato. La minoranza ha rotto, dicendo c'è un binario morto. Vedremo come va questa cosa in aula. Il Premier e la maggioranza del PD sono sicuri di avere i voti, altrimenti ci sono le elezioni. È ovvio che contano sul fatto che molti senatori un po' spersi, pur di non votare, votino comunque. Ma ieri ci siamo occupati della sinistra, oggi complementare trasmissione, quindi rivolta innanzitutto agli ascoltatori che hanno votato o non hanno votato perché delusi o voterebbero comunque formazione di destra, quindi se siete in queste categorie telefonateci per dirci la vostra. E partiamo anche in questo caso da due interventi che ci sono stati sul Corriere della Sera, dedicati in questi giorni, l'editoriale di apertura del Corriere della Sera, due volte esattamente a questo tema, al tema della destra italiana. E ne è uscito uno venerdì, firmato da Pierluigi Battista, ce n'è un altro stamattina firmato da Ernesto Galli della Loggia, che affrontano la questione delle difficoltà della destra italiana, delle sue diverse formazioni, quindi Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, fino a NCD, che come sapete fa problematicamente parte della maggioranza. Problematicamente dico perché in questi giorni non vi sarà sfuggito che Alfano ha dovuto dire ai suoi chi sta con me sta col governo, altrimenti andatevene, quindi è una esistenza difficile quella dell'NCD, non solo dai sondaggi in cui è dato al 2%, ma questi due editoriali hanno affrontato la questione delle difficoltà della destra italiana da due punti di vista diversi, diciamo. Venerdì scorso Pierluigi Battista, parlando del destino incerto del centrodestra, orfano della leadership di Berlusconi, si è soffermato soprattutto sul fatto che manchi una figura di grande aggregatore, quindi una leadership chiara, capace di dare un programma e un senso dello stare insieme alle formazioni dell'attuale centrodestra, mettendolo in gioco come possibilità di essere il vero contraltare in un ballottaggio rispetto a Renzi e al PD, sempre che poi la riforma elettorale sia quella dell'Italia, come ve lo ricordo, chi non prende il 40%, se non c'è un 40% al primo turno, si va al ballottaggio tra le due formazioni barra coalizioni che hanno preso più voti. Come sapete, oggi nei sondaggi al ballottaggio andrebbero i 5 Stelle, non la destra, perché non è chiaro se ci potrebbe essere una destra fatta dalla somma del 10-12% di Forza Italia, del 14% cui è data la Lega, di Fratelli d'Italia, che cosa farebbe NCD oppure no. Ecco, e venerdì scorso Pierluigi Battista si è interrogato proprio su questo, scrivendo che Berlusconi in realtà, per chi continua a guardare a lui, leggo testualmente, è incapace di prefigurare e creare il dopo Berlusconi, perché un giorno parla di una successione democratica e non monarchica, il giorno dopo uccide la prospettiva stessa delle primarie. E il problema è che così, però, seguendo l'incertezza di Berlusconi, gli altri non riescono a risolvere il problema. Se vogliono essere una destra come quella britannica di Cameron, come quella tedesca della Merkel o quella spagnola di Mariano Rajoy, oppure essere una destra identitaria guidata da Salvini, che però, come tutte le scelte identitarie, parla meno a chi si non si ravvisa in quell'identità, in quei toni così aspri. Invece oggi Ernesto Galli della Loggia affronta un'altra questione, cioè quella culturale, la difficoltà culturale della destra italiana, che Ernesto Galli della Loggia scrive in realtà è sempre stata mascherata nei decenni repubblicani, è stata mascherata per lunghi decenni dalla forza della DC. Nella Seconda Repubblica abbiamo avuto prima Berlusconi, che ha tentato di dare una cifra culturale nel 94, e poi i lunghi anni seguiti hanno mostrato che era un insuccesso quella liberale, e Ernesto Galli della Loggia dice: al fondo di tutto c'è un conto culturale mai fatto dalla destra italiana. Ernesto Galli della Loggia, che è, tra virgolette, sempre fedele all'idea della destra storica che fece l'Italia nell'Ottocento, dice: il vero problema della destra italiana è che non fa i conti con lo Stato, con l'idea di Stato, di che cosa significa garantire i diritti a chi e a negarli a chi altro, con l'idea della sovranità, e quindi pone questo problema. Naturalmente, per chi la pensa come me, e qui finisco l'introduzione, questa idea del rifarsi alla destra storica è comprensibilissima. La destra storica travolta poi dal trasformismo nel 1876, quindi che durò pochissimo, fatta l'Italia in realtà, anche se fece l'unificazione dei codici, in realtà, visto il Novecento e gli anni che abbiamo, per me, lo dico da liberale liberista, il problema è quello soprattutto di vedere come cambiare lo Stato, cioè lo Stato mi sembra più un problema che la soluzione, ma questa è la mia opinione. Allora, voi telefonateci per dirci come la vedete, se vorreste una destra a guida Salvini, se sperate ancora in Berlusconi, come la pensate dell'NCD di Alfano, se credete davvero che sia la volta buona di una ripresa della destra per andare al ballottaggio, oppure se invece magari siete elettori di destra delusi e dite: beh, a questo punto io voto 5 Stelle per non votare a sinistra. In attesa che ci chiamiate, abbiamo con noi appunto Pierluigi Battista, che ringrazio. Buon pomeriggio, Pierluigi. Buon pomeriggio a voi. Nel frattempo informo che Silvio Berlusconi è atteso a Roma per domani, mentre per la sera è già convocato a Palazzo Grazioli lo Stato Maggiore del partito, i capigruppo, i vici, Toti, Bergamini, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete che nei giorni scorsi un vertice simile è andato buco, per così dire, perché Berlusconi stava da Putin. Allora, Pierluigi, sbaglio o quello che hai scritto venerdì era un fondo senza troppe speranze, per così dire, che nel breve questo problema della leadership della destra trovi una soluzione? Ma guarda, esiste una parte analitica nei discorsi e poi una parte propositiva. Nella parte analitica, secondo me, io partirei da dei numeri che mi sembrano abbastanza eloquenti. Nel 2008, cioè non 100 anni fa, ma 7 anni fa, se non sbaglio, se i miei conti non sono errati, sono giusti, cioè niente, 7 anni fa sono nulla, diciamo, nei grandi scritti storici, il Popolo della Libertà, detto PDL, che comprendeva l'ex Forza Italia più l'ex AN, aveva da solo il 38% dei voti, unito al 5-6%, non ricordo con esattezza, della Lega facevano il 44-45%, unito ad altre formazioni meridionaliste, parlo di Lombardo, altre cose e così via, mi sembra, insomma, si arrivava al 46%, escluso, perché nel 2008 si addirittura Berlusconi era talmente forte che escluse sia un rapporto elettorale con la destra di Storace, non so se ti ricordi, sì, che raggiunse, nonostante tutti sapessero che non avrebbe raggiunto il quorum, pur sempre il 2% dei voti, cioè quanto oggi viene detto nel CD, per cui saremmo arrivati al 48, più, scusate la, diciamo così, la mia ragioneristica è un po' pallosa precisione, ma insomma è per capire, per far capire l'entità della catastrofe, più mi pare che si chiamasse, sì, era l'UDC, Ferdinando Casini, con cui aveva rotto nel 2008 perché Casini non volle entrare nel PDL, ma comunque faceva parte del centrodestra, si arrivava oltre il 50% dei voti. È così. Oggi siamo a un terzo dei voti, più esperienze Forza Italia, più la Lega di Salvini che prende quel 13-14 secondo i sondaggi. Certo, le regionali sono andate in un modo che sembrerebbe che, diciamo, qualche segnale di vita, ma è un fatto che oggi, diciamo così, quella crisi spaventosa che da tutti viene negata, perché poi questa cosa qui è: no, ma se fai la somma, se ci metti Fratelli d'Italia più quello, più quell'altro, ho capito, ma è una frantumazione, tanto che si arriva a quello che tu dicevi, cioè che se oggi si dovesse arrivare a un ballottaggio tra Renzi e questo, è anziché essere come in tutte le democrazie occidentali una formazione centrodestra più o meno, visto che quel che Renzi è il capo del centro-sinistra, una formazione centrodestra, oggi invece ci sarebbe il ballottaggio tra Renzi e Grillo, cioè verrebbe sancita la storica irrilevanza del centrodestra in Italia. Questo è, diciamo così, il dato. Ora, tu parlavi di complementarietà destra-sinistra, è vero, cioè che diciamo è la stessa spinta che viene chiamata dagli analisti, perché non sanno decifrare le cose e quindi si inventano delle parole inesistenti. Populista esiste sia una variante di sinistra, che è quella che ha portato in Inghilterra, in Grecia, Podemos, eccetera, eccetera, ma anche in alcuni paesi sul versante della destra, cioè l'equivalente populista, tra virgolette, francese di Tsipras è di destra, che è Marine Le Pen. Di destra in senso idem, vale per tutti i paesi del nord e dell'ex est Europa. La stessa Germania, cioè esistono delle formazioni alla destra della Merkel, diciamo così, che dicono che la Merkel è troppo molle con l'Europa. Poi, cioè, quando si parla di sovranità democratica, si deve parlare anche di questo. Cioè, la Merkel ha a che fare anche con un elettorato che vuole. Ma detto tutto questo, finito, diciamo, questa cosa. La Merkel lì esiste, ma la Merkel esiste. Sarkozy clamorosamente è tornato in scena e compete con Marine Le Pen. Invece il centrodestra italiano si è squagliato. E cosa è rimasto? Alla destra di Salvini, che è l'equivalente di Marine Le Pen in Francia, che è l'equivalente di Farage in Gran Bretagna. Cioè in tutti i paesi esiste questa forza qui. Ma dove non c'è una, diciamo così, forza moderata, liberale, conservatrice, repubblicana, liberale e così via, dove non c'è questa forza qui, variamente modulata, ha grande spazio soltanto alla destra. Ma la destra dà un voto, esattamente come avviene per la sinistra, un voto iperidentitario, magari forte, che prende, può arrivare a prendere un quarto dell'elettorato, ma che non sarà mai maggioritario. E quindi il sistema politico italiano, se il centrodestra non risolve questo suo problema di leadership, si arriverà, diciamo, con una forte area di protesta, ma non esiste più una destra che si ponga come alternativa di governo. E messa così dovrebbe essere un problema la cui soluzione nasce più dai resti, per così dire, lo dico da analista, non voglio esprimere giudizi, di Forza Italia, che da Salvini. Cioè, Salvini può obiettare, come obietta quando parla fuori dai denti, non in pubblico, dice: signori, io ho preso la Lega in mano che era al 2%, l'ho portata nei sondaggi al 14%, fatemi vedere voi, visto che siete liberali, moderati e così via. Quindi questa è la sua difesa, per così dire. Comunque io apporto un patrimonio con le mie idee forti, dure, divisive, eccetera, eccetera, però insomma ho riacchiappato dei voti che altrimenti erano dispersi. E nel campo liberale, che dice Salvini, quello che sottolinei tu, non trova una soluzione, è così o no? Sì, ma Salvini fa egregiamente il suo gioco, cioè prendere il 15, 17, 18%, cioè un grandissimo esplosivo. Cioè tu dici in realtà il suo gioco è meglio avere una parte identitaria del 15% Salvini, che concorrere a governare. Oggi Salvini andrebbe domani alle elezioni. Oggi, scusate, oggi Salvini andrebbe subito alle elezioni, sapendo che non andrebbe a Palazzo Chigi. Punto. Questa è la sua forza e la debolezza storica del centrodestra italiano, però. Perché un conto è un voto identitario rispetto molto forte, un conto è un gioco a vincere. Politicamente non c'è altra possibilità, o si vince avendo il 50% dei voci, oppure il 50% dei votanti. Intendo dire, cioè di quelli che si recano alle urne, poi dopo dell'astensionismo però non fa, oppure così, oppure ma dice, ma anche gli altri, ma certo che anche gli altri. Noi abbiamo avuto a Roma il sindaco di Roma Marino, che venne votato al ballottaggio dal 45% dei romani, il 45%, cioè il 55% dei romani artiste, che sia Marino o che sia Limanno, non me ne frega nulla, l'uno vale l'altro. Questo era il discorso del 55% dei romani, ma pur vinse con quella cosa lì, cioè la frana del centrodestra fu tale che anche col minimo dei voti Marino e il PD conquistarono la capitale. Questo è il punto, perché poi alla fine conta quello, conta, diciamo, quanti voti validi. Chi entra a Palazzo Chigi se ne può pure fottere ampiamente dell'astensione elettorale, e quelli lì, però l'unica cosa è che l'astensione sono i voti di Forza Italia. Esattamente. Questo è il punto. Esatto. Sono andati non a Salvini, ma sono andati nell'astensione, e dirò di più, una parte da Grillo. Da Grillo, sì, ma questo lo dicono appunto gli studi sui flussi, dicono esattamente questo, la destra che resta a casa, perché è difficile dire che nella storia italiana non ci sia un elettorato moderato e conservatore. Allora, ripartiamo da questo punto, ripartendo dalle vostre telefonate che vedo che sono lì in fila, tra un minuto adesso le informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a parlare del... Ieri abbiamo parlato dei problemi della sinistra italiana, oggi della crisi della destra, e con noi Pierluigi Battista, che ha scritto un editoriale sul Corriere su questo. Oggi ne trovate un altro di Ernesto Galli della Loggia. Intanto moltissimi sms, diciamo che ce ne sono molti, cioè diversi, che direttori della destra delusi che dicono io voto 5 Stelle. Ce ne sono altre di sinistra che dicono di considerare di sinistra, cioè del PD, scusate, che dicono di considerare Grillo una specie di variante della destra sociale europea su temi come la cittadinanza, l'immigrazione e così via. Ci sono segnalazioni di diversi ascoltatori convergenti, non so se siano d'accordo tra loro, sull'idea che Luca Zaia potrebbe essere una specie di candidato di convergenza tra Forza Italia e la Lega di Salvini come premier, e altri che dicono che comunque di fronte a questo, pur di non votare Renzi, voterebbero 5 Stelle senza nessun problema. Le telefonate, cominciamo con Marco dalla provincia di Foggia. Prego Marco. Salve Oscar. Salve. Le volevo raccontare questo piccolo aneddoto che è accaduto prima delle ultime elezioni comunali, riguarda proprio la destra sul territorio. Con alcuni ragazzi, io ho 25 anni, con alcuni miei coetanei decidiamo di costruire un programma elettorale per cercare di mettere in atto le competenze accademiche che stiamo apprendendo appunto con il nostro percorso universitario. Ci rivolgiamo alla sezione del nostro paese e diciamo guardate, vi diamo la pappa pronta. Cioè alla sezione di chi? Alla sezione di Forza Italia del nostro paese. Sì. Diciamo guardate, vi diamo la pappa pronta, un programma elettorale già sviluppato, risposta? Già pronto. La risposta è: ragazzi, noi vi accogliamo, abbiamo trovato dei professionisti competenti, avvocati, commercialisti, gente con delle competenze in campo amministrativo, però ci hanno premesso una cosa da subito, hanno detto ragazzi, voi più del territorio non potrete andare, Roma è ermetica. Dicendo Roma forse sbagliamo, dovevamo dire Arcore, ermetico. Qual è il punto? Il punto è che la destra non fa emergere nessuno dal territorio. Mentre Renzi, partendo da Firenze, è riuscito ad emergere come sindaco, da presidente della regione, poi sindaco di Firenze, poi primo ministro, passando per la segreteria, è assolutamente impossibile la destra emergere è bloccata, a destra, diciamo, dal territorio. Traduco, la destra è bloccata da quelli che devono tutto a Berlusconi e che si interrogano, ecco, tradotto in sintesi brutale come Marco non ha detto. Sentiamo Sandro da Udine. Sandro. Buongiorno. Eccoci. Allora, due considerazioni al volo. Concordo sulla disamina sul populismo, essere di destra o di sinistra, che ha fatto l'ospite. Sì. Tenuto conto che però qualunque populismo è sempre espressione di malcontento, può appunto manifestarsi a destra o a sinistra, ma dopo sono due frange che si toccano perché hanno tantissime cose in comune, quindi esulano anche dalle etichette destra o sinistra dal mio punto di vista, che sono oltretutto anche antistoriche perché oggi è difficile definirsi di destra o di sinistra. Detto ciò, la destra in Italia in realtà ha un problema, che la destra è sempre stata identificata storicamente con la Democrazia Cristiana negli anni della Prima Repubblica, che era la grande balena bianca con l'appoggio della Chiesa, eccetera, eccetera. Da quando non c'è più la Democrazia Cristiana, la destra riesce a emergere solo quando viene fuori un personaggio, come ha detto l'ascoltatore che mi ha preceduto, carismatico come Berlusconi, e in mancanza di un personaggio come questo, che non c'è, perché non si vede all'orizzonte, la destra è destinata a non avere alcun tipo di successo elettorale dal mio punto di vista, finché non riesce a far emergere dal territorio delle persone. Quindi Sandro dice il problema posto da Battista, quello della leadership post Berlusconiana, è vero, ma non c'è una soluzione a breve. Fiorenzo da Venezia, Fiorenzo. Buongiorno, io mi allineo un po' agli altri due ascoltatori che sono stati qui. Per me Berlusconi, che è la causa prima del fallimento, chiamavano così, della destra. Lui ha tagliato praticamente le gambe a in casa, non ha proposto, non ha favorito la formazione di leader in casa sua. Ricordo ancora la sceneggiata ancora delle che sei tu Micacci di Confini, ad esempio, che l'ha fatto passare per un traditore, per un amico, perché per me forse non era proprio così. Però capisci, Fiorenzo, questa accusa, che è un'accusa che si potrebbe fare a moltissimi leader politici, lo voglio vedere Renzi che formerà chi gli prende il posto, è un'accusa da rivolgere soprattutto a chi dentro le formazioni politiche, nella storia dell'evoluzione del ventennio berlusconiano, non ha saputo porsi in maniera adeguata per prendersi la leadership, in maniera adeguata. Fini ci ha provato, ma non era quella adeguata, come si è visto l'esito, e così via. Quindi è una, per così dire, un argomento a doppio taglio, perché la politica che ho conosciuto io quando ero giovane nei partiti della Prima Repubblica non regalava niente a nessuno, c'era un cursus honorum, ma alla fine per emergere dovevi crederci e dovevi rischiare moltissimo, e a quel punto le leadership si alternavano, ma questo in tutti i partiti, e non c'era solo il centralismo democratico nel PC, per così dire, dalle altre parti non era poi molto diverso. Torniamo a Pierluigi Battista. Ipotizziamo che ci sia un anno e mezzo ancora per andare a votare, non prima, non voglio arrivare al 2018. A oggi tu vedi la situazione ferma o c'è qualcosa che come analista ti sembra che si potrebbe sbloccare? Ma io non vedo quale, diciamo, quale via di sblocco ci possa essere. Gli interventi che ci sono stati descrivono esattamente una situazione di impossibile sblocco. Il problema è che è stato sempre considerato come una specie di lusso, di fisi, ma minoritaria, l'idea della natura democratica di un partito come Forza Italia, che è nato su basi carismatiche ed è stata emanazione di una persona con una fortissima caratura, diciamo, certo, mediatica, politica, anche strategica. Io, un giorno si dirà che Berlusconi non era vero niente di tutte queste cose, prepolitico, ingenuo, certo, cioè, è uno che ha avuto anche delle fortissime intuizioni politiche molto più... Però tu dici senza la natura democratica alla fine è una cosa che si avvita sulla crisi del carisma senza che possa emergere nulla. Resta il problema anche di una lettura liberal-democratica più liberista di mercato, e su questo grande problema, perché siamo molto minoritari nel nostro paese. Intanto grazie per Luigi Battista, continuate con la D24, appuntamento con me domani.